Una vita senza memoria non sarebbe una vita, così come un'intelligenza senza la possibilità di esprimersi non sarebbe un'intelligenza. La nostra memoria è la nostra coerenza, la ragione, l'azione, il sentimento. Senza di lei siamo niente. Buñuel. Se le immagini, come scrive Tano D'Amico in un suo libro, non sono altro che un pezzo di carta sporco d'inchiostro che vive solo perché è lo spettatore che dà loro vita, allora l'invito è che stasera proviamo ad essere quello spettatore, ad essere noi spettatori di queste immagini, quelli che non c'erano nel 77 o che come me avevano 2 anni e quelli che c'erano. Stasera questo Red Reading vorrebbe provare a far questo, a farci diventare spettatori, che poi è quello che si fa a teatro un po', a diventare anche qualcun altro partendo da sé. Spettatori, osservatori delle parole, immagini di questo libro da cui siamo partiti, che racconta la storia di un'amicizia, prima di tutto. Di un'amicizia e anche la storia di una fotografia. Insieme le immagini di altri compagni di strada questa sera con noi. Ognuno con la sua fotografia per raccontarci di chi ancora cammina sulla strada alla ricerca di un mondo nuovo. Quindi ci sono dei racconti, immagini dei nostri compagni di Terra Nullius, ma non solo, anche di giovanissimi universitari. Comunque, questa che volevamo raccontare stasera è la storia di un'altra immagine e di un'altra storia che secondo noi ha ancora a cuore il mantenimento di una memoria a lungo termine, una memoria libera, ricca e preziosa, proprio per la sua complessità. Complessità. Non è semplice questa memoria. Ha molte contraddizioni, errori anche. Però ci piace proprio perché è così. Quindi è un'altra storia. In bianco e nero. Dentro questo bianco e nero è immortalato il sogno ribelle di una generazione che più di ogni altra cosa credeva nella solidarietà dei rapporti umani e pensava che amico, fratello, sorella, compagna, compagno volesse dire che nessuno resti indietro. Il primo di questi frammenti, il primo di questi ricordi inizia da un parco e da un bambino ed è il ricordo di Luca Moretti letto da Veronica Leffe. Quel parco ora non c'è più. Ci andavo sempre con mia madre. Era uno spiraglio tra gli abusi edilizi della nostra periferia. C'erano i pini e le aiuole, i vecchi e un campo di bocce. I vecchi sono rimasti e il parco non c'è più. Un'enorme buca l'ha inghiottito, portandosi appresso l'infanzia e i pensieri scoscesi del bimbo che ero. Con una paletta di plastica avevo cominciato a scavare una buca di quelle che poi non si possono più riempire, una buca grande, pensavo, che ci avrei seppellito tutti i miei incubi e le mie perversioni di bambino. Sara passeggiava disinvolta, credo, e io con la mia paletta in mano la osservavo. Con ogni probabilità la mia buca era più importante di quella ragazza che passeggiava. Eppure quel vestito a fiori, la tolfa che ciondolava, i suoi capelli avevano attratto la mia attenzione. L'afferrarono da dietro per le braccia, erano in due. La tolfa smise di ciondolare. Io continuavo a scavare e vedevo le loro gambe, erano a poca distanza dalla mia buca. Sara cominciò a urlare, chiedeva aiuto, la stavano portando via. Ora cadono nella mia buca, pensavo. Aveva i capelli lunghi e lisci. Era bellissima. Avrei voluto aiutarla, sollevarmi da terra e correre in suo soccorso. Mia madre fu più svelta, mi afferrò per un braccio e mi trascinò via mentre altri uomini si avvicinavano alla ragazza circondandola e strappandole di dosso la tolfa. Era il 18 giugno 1985, la paletta cadeva e mia madre mi portava lontano. Ormai la buca era fatta, una buca grande che avrebbe poi ingoiato tutto, una buca dorata, qualcosa di simile all'età adulta. Sara scomparve così. Non intervenne nessuno ad aiutarla e io ero troppo piccolo per capire i suoi lamenti, infinitamente minuscolo davanti alla tragedia di un intero paese. Oggi quel parco non c'è più. Vi hanno costruito un parcheggio. La mia buca però è rimasta, la porto sempre con me. Questo racconto a mia figlia, che mi guarda con gli stessi occhi che avevo io, quelli della purezza, e con la sua paletta in mano cerca una buca ove seppellire tutti i cattivi pensieri, tutte le richieste di aiuto che d'ora in poi non riuscirà ad ascoltare. Quando ho incontrato il libro Daddo e Paolo, ho pensato che avevo anch'io delle immagini di persone, di amici speciali che non mi avevano lasciato indietro. Allora partiamo proprio dalle immagini. La prima immagine. Cloridan s'è ridotto ove non sente, di chi segue lo strepito e il rumore. Ma quando da Medor si vede assente, gli pare aver lasciato addietro il core. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 19. È questa l'altra foto del 77. Daddo solleva Paolo, ferito alle gambe nel tentativo estremo di portarselo via, di sottrarlo alla cattura, di trascinarlo lontano dal fuoco nemico e dalla piazza vuota. Eccola l'altra foto, scattata da Tano D'Amico in piazza Indipendenza la mattina del 2 febbraio del 1977, altra perché spuntata su un numero speciale del quotidiano Il Manifesto a 20 anni di distanza da un'altra epoca, altra perché diversa dai tipi pistoleri confezionati su quell'anno terribile ma ugualmente piena di polvere da sparo e conflitto, di sovversione e scontro armato. Altra perché capace di fissare un attimo di sconsiderata, partigiana e trasgressiva, folle generosità. Altra foto ancora, perché piena del valore dell'amicizia e assieme della potenza possibile dello scontro. Immagine densa di un sentimento fortemente personale assieme espressione di una narrazione collettiva. Testimonia a distanza d'un fatto imprevedibile, d'un miracolo irrealizzato, d'una liberazione attesa incompiuta quanto impossibile. Questa è la superficie. Pensate adesso, o meglio, intuite. Che cosa c'è al di là da essa? Che cosa deve essere la realtà se questo è il suo aspetto? Non sé cómo decirte. Non sé cómo explicarte. Que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra, y la luz del día me canta esta triste canción. Esta triste canzone. Ore 7. Il compagno ferito alla testa dai fascisti era ricoverato all'ospedale in coma. La sera stessa a Primavalle decidemmo che oltre a stare in piazza alla manifestazione indetta dal movimento per rispondere all'assalto della mattina, dovevamo garantire anche una presenza armata per evitare che fatti come quello successo all'università si ripetessero. Stavo nella mia camera ad aspettare che Daddo arrivasse, intanto mettevo in ordine le pistole. La mia, una Walther PPK 765, quella di Daddo una 38 Smith & Wesson. Controllavo che le armi fossero cariche, munizioni, caricatori di riserva. Ripassavo nella testa il nostro intervento, solo in caso di assalti armati contro la manifestazione. Non avremmo dovuto partecipare agli scontri. Ci saremmo tenuti sempre ai lati, mai all'interno. La tensione era alta, la paura tanta, ma non potevo darlo a vedere. Ero il responsabile militare della zona e poi Daddo era più giovane di me. Daddo arrivò puntuale, erano quasi le 7. Ci prendemmo un caffè e poi cominciammo la vestizione. Ci saremmo vestiti in maniera anonima per non dare nell'occhio: un capo di abbigliamento lungo, un trench o un cappotto da levare alla svelta, occhiali da sole, guanti stretti di pelle, scarpe comode e soprattutto con i lacci per correre. Sembrava tutto in ordine. Scherzai con Daddo su come gli donava quel cappellino alla francese che si era messo e che, guardandolo bene, poteva far pensare a una coppola siciliana. Lui rise nervosamente ma non rispose. Quella mattina non era ciarliero come al solito, ma silenzioso e freddo. Ero molto meticoloso, al limite della fissazione. Guardai e riguardai Daddo. Poi decisi che doveva avere un cappotto scuro, anche perché io avevo un trench chiaro, e gli diedi quello di mio fratello. Uscimmo di casa e andammo verso piazza Capecelatro, dove si trovava la fermata del 46. L'attesa fu lunga e senza parole. Poi l'autobus arrivò e partì. Let's go. Why not? Lo spesso schema d'este, mio amor, son los que me estás mirando y las lágrimas me estás secando con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no se me deja el dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Gravissimi incidenti questa mattina a Roma attorno alla città universitaria al termine di una manifestazione di protesta per il ferimento del giovane Guido Bellachioma, un agente di pubblica sicurezza in fin di vita per un colpo di arma da fuoco, due studenti feriti e arrestati, un capitano dei vigili urbani, un altro agente e un altro giovane colpiti in modo non grave. Alle 10.30 circa 8.000 studenti si sono radunati nella piazza. I due militanti di sinistra caduti a terra, feriti, sono Leonardo Daddo Fortuna e Paolo Tommasini. La presa di posizione contro lo squadrismo armato di destra è unanime, ma la preoccupazione per la carica esplosiva che va a detonare pure. Un nuovo 68. No, non credo. Il paragone è esagerato, altri tempi quelli. A parlare è Antonio Ruberti, rettore eletto da un fronte progressista e da pochi mesi insediato alla guida del più grande ateneo d'Italia. Effettivamente il movimento del 77 non c'è ancora, ci sono però le lotte per il diritto alla casa, per un servizio sanitario sempre più accessibile, per l'autoriduzione delle bollette, per l'istruzione scolastica e universitaria sempre più ampia, che hanno sedimentato una forza e una coscienza proletaria enorme. Il comunismo, o quel che l'è, il diritto a vedere soddisfatti i propri bisogni, a prendersi le cose secondo i propri desideri, non è roba da sol dell'avvenire. Eh no, è qui e ora. All'inizio il 77 si presentò però come un anno di grande quiete. I movimenti, più che a mostrarsi, pensavano a vivere, a come vivere. Tano scrive: mi misi in viaggio, feci il giro delle grandi fabbriche, Torino, Milano, Marghera. Sembrava non si muovesse niente. Volti pensierosi entravano ed uscivano ogni turno. Era tutto così quieto che nel recinto dell'Alfa Romeo nessuno mi fermò. Mi trovai nei locali del dopolavoro. Non si sentiva una voce, uno scherzo, un richiamo. È che c'era il PC, quel PC, quello che nel mese di gennaio normalizza le fabbriche e si fa stato, convoglia il consenso delle tute blu verso una manovra fatta di tagli, vota l'astensione al governo Andreotti, presenta il conto a Confindustria e poteri forti e... recessione, inflazione, sacrifici. Termini come spread e bound, così come le sigle BTP o BCE, non sono allora d'uso corrente, ma la banalità del bene supremo della nazione ha già in Giorgio Napolitano, lo stesso Giorgio Napolitano, uno dei suoi più ispirati cantori. Sbaglia chi persegue le spinte protestatarie, sbaglia chi punta sul tema dell'aumento del salario. Questa è un'impostazione irresponsabile. L'Unità, 7 gennaio 1977, avviato il confronto sindacati-governo e Luciano Lama gongola a Roma alla riunione dei 2000 delegati sindacali. Ciò che è stato approvato è una risposta coerente. Sì, niente soldi in tasca agli operai, però, risponde Lotta continua. Ma la crisi è crisi e anche allora, per andare a battere cassa e presentare i compiti svolti, bisognava partire per il Nord Europa. Andreotti a Bonn. Sì al prestito, a condizione che la politica di austerità prosegua. No, stasera sempre Andreotti. A Milano, il 30 gennaio, salsa l'alleluia sacrificale di Enrico Berlinguer. Occorre un governo di solidarietà democratica. È l'ultima domenica di gennaio. Il girone d'andata del campionato di calcio sta per terminare. A Roma la Juve, ahimè, è sconfitta 3-1 e Bruno Conti segna il suo primo gol in giallo-rosso. I bianconeri di Bettega perdono la testa della classifica e in curva sud nasce il comando ultra. Cartelloni per strada sparano l'ennesimo titolo del ciclo poliziottesco con Merli e Thomas Millian. Il cinico, l'infame, il violento Clint Eastwood veste i panni dell'ispettore Callaghan e prevede un cielo di piombo. Al botteghino nazionale tira molto Kabir Bedi nelle vesti di Sandokan o del Corsaro Nero. Nelle sale cinematografiche di mezzo mondo esce La febbre del sabato sera. Ore 14. Il silenzio è piombato nella mia testa con la stessa rapidità con cui prima vi era penetrato il rumore assordante dei colpi di pistola. Sono a terra. Sono lucido. Le gambe non rispondono, faccio per muovermi. Alzo lo sguardo, vedo la canna di un mitra che mi punta la faccia e qualcosa di bianco che svolazza. Istintivamente giro la testa e la riparo proprio quando la raffica parte. Come un pizzico profondo sento una fitta al fianco e il braccio con cui mi proteggevo perde consistenza. Svengo. La lettiga corre veloce nei sotterranei del policlinico verso la sala operatoria. Sento infermieri chiedere spazio tra file di poliziotti che inveiscono. Qualcuno cerca di colpirmi, ma loro fanno scudo. Mi risveglio e la prima cosa che mi compare sono facce note in camice bianco che mi salutano con il pugno alzato. Ancora adesso non sono completamente sicuro se fosse parte di qualche sogno o realtà. Quello che percepisco nitidamente è invece il dolore profondo che mi squassa l'anima, proveniente dalla gamba in trazione. È insopportabile, ma in qualche modo a quel dolore sono grato. Mi dà la misura del fatto che ci sono, che sono vivo. Se come amarte, non se come abbracciarte, perché non se me deja el dolor que tengo yo. La seconda immagine è: lasciatemi dire la verità sul nostro tempo e sulla nostra gente. Soggetti antagonisti diversi tra loro. Moltitudini senza classe, orfane di organizzazione. Indiani metropolitani in circolazione nelle riserve di periferia, donne che non vogliono starsene chiuse in casa. Alle 19:30 in piazza Esedra, tutte insieme ci riprendiamo le strade di Roma di notte. Operai che scappano dal lavoro, precari in cerca di reddito, occupanti di case e di centri sociali, cortei, a volte armati e a volte no, che parlano di riappropriazione, contropotere, espressione dei corpi, guerra allo Stato e diritto alla felicità. 2000 giovani, proletari, studenti, militanti hanno invaso il Cinema America di Trastevere, questo Cinema America. Roma è di nuovo terreno di caccia ai fascisti, è violenta, è armata, da diverse borgate muovono soggetti ribelli, in alcuni quartieri la tensione è più forte, l'energia liberata dalla crisi dei gruppi è incontrollata, Daddo e Paolo da questa Roma provengono, di questa sensibilità e di questo fermento si nutrono e si sentono parte, e il 2 febbraio sono in piazza col vestito giusto, con la loro generosità, determinazione e autonomia. Non c'è nessun comando d'organizzazione che mette mano alle loro pistole. Non c'è nessun dubbio che ferma la loro prevaricazione. Non c'è nessuna legge che può mai impedire a Daddo di tornare indietro e con un gesto noto a tutti, con una foto nascosta a 20 anni, dare inizio al 77. È questa l'altra foto. La cronaca del 2 febbraio è fatta di diverse istantanee da prima pagina. Mancano di quel giorno sulla carta stampata ingiallita nella riservatezza degli archivi le due più significative, scattate al volo, con la prontezza di un gesto istintivo eppure trattenute, con altrettanto semplice istintività per anni, in un cassetto. I negativi li ho celati mischiandoli tra quelli impressi in un mio giro nei manicomi, al riparo della possibile curiosità inquisitoria di giudici e poliziotti. Sei stato un pazzo. Perché non l'hai pubblicata? Pensavo ti appartenesse. È la tua vita. No, quella foto è tua. È il tuo lavoro. Non erano molti i fotografi che seguivano le manifestazioni. Oggi un corteo è pieno di macchine fotografiche, occhi che inquadrano la scena, flash che riprendono da 1000 angoli. Le macchine ultramoderne fanno tutto loro, mettono a fuoco da sé. Ma cosa mettono a fuoco di un volto, di una persona, una pupilla, un naso, una fronte, una mano? Chissà. Noi mettevamo a fuoco gli occhi, quei puntini neri che non ingannavano mai il telemetro. Affermarsi in piazza quel giorno, allo scoppio delle prime secche detonazioni, fu invece solo Tano, e due soli furono i suoi scatti, capaci ancora un secolo dopo a rendere incompleto e irrisolto il resoconto riportato dai quotidiani, lasciando invece ancora tanti e tanti anni dopo aperta, intensa e tutta da svolgere la loro narrazione. Queste due foto scompaiono, scompaiono non per nascondere la verità, ma per consentire la verità. Io e Paolo non eravamo nel corteo, ci allontanavamo verso la stazione. Poi abbiamo visto due uomini scendere da una 127 bianca e sparare. Allora abbiamo fatto fuoco. Uno è rimasto ferito, l'altro ha ferito Paolo. Quello armato di mitra ci ha inseguito, ha colpito di nuovo Paolo e ferito anche me. Noi eravamo sicuri fossero fascisti. Abbiamo sparato per difendere il corteo. Due giovani militanti di sinistra sono stati feriti da poliziotti che potevano sembrare fascisti, che avevano aperto il fuoco e da cui si erano difesi. Sono innocenti e antifascisti. Sono innocenti perché antifascisti? Questa è la verità che consente una difesa immediata e una rivendicazione di Paolo e Daddo, senza se e senza ma. I fascisti sparano impunemente, non se ne può più. I poliziotti travestiti bazzicano le piazze impunemente. Il mimetismo dei poliziotti in piazza diventerà scandalo pubblico il giorno dell'assassinio di Giorgiana Masi. Nelle foto degli agenti di Cossiga mascherati da manifestanti con la pistola in pugno. L'opinione democratica, quindi, non può che schierarsi con la verità del movimento. Alla manifestazione per chiedere la libertà di Paolo e Daddo saranno in 30.000. Scorrono così, l'una a fianco dell'altra, due storie parallele. Due giovani antifascisti aggrediti innocenti, due provocatori armati in piazza. In mezzo, questa foto. In mezzo, il Partito Comunista, che intanto con il compromesso storico sta giocando una partita enorme a livello nazionale, si è candidato alla guida del paese. Ma chi cazzo sono questi quattro sciamannati che mettono a repentaglio un percorso così faticoso e luminoso? Che mettono in discussione la moneta di scambio che abbiamo per governare, la capacità di controllo dell'opposizione sociale, accendere e spegnere l'interruttore delle lotte. Ma chi cazzo sono? Ma chi cazzo sono? Ma chi cazzo sono? Condanneranno Paolo e Daddo come provocatori. E su questa linea, verso il movimento, non torneranno più indietro. Le immagini apparse sui giornali in quei giorni mostrarono nel male l'eterno legame tra movimenti e immagini. Si possono controllare le immagini, di per sé incontrollabili, come i movimenti, solo abbassandone il livello, annientandone la dignità, annientandone la bellezza. Basta poco a distruggere un movimento con le immagini. Basta lasciare spazio alla grossolanità, alla criticità, all'ingordigia. Basta lasciar spazio alla bassezza, all'egoismo, alla pagnotta. Basta dare ascolto all'ansimare assatanato dei lettori che pretendono il sangue e il dolore di quelli che rompono le scatole, di quelli che disturbano la quiete, di quelli che scuotono l'assuefazione. Basta che il fotografo si abbandoni alla superficialità, alla normalità. Basta non pensare. Basta lasciar fare, schiacciare il bottone e non preoccuparsi delle conseguenze. Non è colpa di nessuno, è il lavoro. Ci penserà la stampa a fare il suo lavoro. I fotografi debbono solo pensare a fare il loro. Nella foto di Daddo, che torna indietro, raccoglie Paolo e contemporaneamente trattiene strette le due pistole, c'è il momento dell'azione e quello della sua visione. C'è la testimonianza d'un atto e la complicità di chi poi lo conserverà nascosto per anni. C'è il tempo dilatato per la sua pubblicazione e il qui e ora della rivolta. C'è il racconto epico che sa di scena lontana, di letteratura avventurosa, di spazio narrativo dove s'affollano personaggi e storie, combattenti della Repubblica Romana del 49, giovani partigiani, personaggi di Dumas, Giulia Testa, Mucchio Selvaggio, quei protagonisti delle rivoluzioni a Macondo, capaci di 32 insurrezioni armate una ad una sconfitte. In quella foto c'è la realtà d'un racconto da film e c'è la rappresentazione di un miracolo ateo imprevisto eppure atteso, esplosione di irrazionale e totale solidarietà sorretta dalla più indisciplinata e ribelle contravvenzione alle regole, a quelle istintive della sopravvivenza e a quelle rigide della norma militante. L'unicità di quella foto è anche per i suoi detrattori. Giampiero Mughini, collezionista di foto, di libri, di occhiali, di partecipazioni televisive, di insulti più incassati che dati, di provocazioni juventine e di iperboli calcistiche. E c'è scritto sul libro che tu hai detto che hai acquistato queste due foto del 77 che ritraggono Paolo e Daddo. E cito: ma che razza di eroi e santi sono quelli che vanno a un corteo con due pistole in mano? È giusta questa? Assolutamente sì. Ok. Che razza di eroi e santi? Erano quei due con la pistola in mano in piazza quel giorno lì. Da dove venivano? Eh? E soprattutto, che razza di barbari erano tutti quelli che presero a strillare il loro nome nelle piazze? Di quali fatti si nutriva la sovversione di tanti collettivi scesi dalle periferie? Dentro quale impasto di buone cose della terra era lievitata la forza di quel movimento che li volle innocenti subito? Assolti perché il fatto non è reato, liberanti e liberi su ogni striscione, su ogni scritta di muro, dentro ogni assemblea e in ogni corteo che per un anno occupò la città, tosto e armato, gioioso e riverente che fosse. Nei momenti alti dell'umanità, nei movimenti, la fotografia deve rappresentare le istanze. Torna l'invisibile nelle immagini. Eravamo giovani, non avevamo trovato risposte nei partiti, nelle università, nelle chiese. Ognuno di noi era già stato ricacciato indietro, io mi sento così pure oggi. Ci sentivamo fratelli degli ultimi della terra. Quella volta ci ripresentammo tutti insieme. Per farci coraggio, ci tenevamo per mano con quelli che nella storia non erano mai entrati. Con i pazzi torturati nei manicomi, con i carcerati, dimenticati e uccisi nei letti di contenzione, con i soldati che nelle caserme venivano piegati all'obbedienza, con chi aveva sempre costruito case e non aveva mai avuto una casa. Con le donne e gli uomini comprati e venduti. I primi morti sono stati fra loro. Io ero solo il fotografo. E se ho un rimpianto, è quello di non aver vissuto una situazione per intero. Dal suo nascere al suo morire, ho vissuto solo frammenti, infiniti frammenti. Conoscevo tanti pezzetti. Tanti pezzetti della vita degli altri. L'inverno passava, qualcuno di lì il nastro girava. Sì, la voce tremava, l'inverno finì e poi primavera e qualcosa cambiò, qualcuno moriva e su un ponte lasciò i suoi 20 anni e qualcosa di più, e dentro i miei panni la rabbia che tu da sempre mi dai, parlando per me, scavando nei pensieri miei, guardandomi poi dall'alto all'ingiù, e forse io valgo di più. L'estate moriva, Bologna tremò, la Dalia fioriva, la gente pensò dei tanti domani vestiti di jeans, chiamandoli strani, ma non fu così. E quando mi incontri, che pensi di me? Tu sappi che il sole che splende è per te, e il grano che nasce, l'acqua che va, è un dono di tutti, padroni non ha. Il grano che nasce e l'acqua che va, è un dono di tutti, padroni non ha. Pierpaolo Di Mino, del collettivo Terra Nullius, con cui stiamo collaborando, che ha un altro racconto nato da questo red reading, queste istantanee, questo ricordo di chi non c'era. Mio figlio si mette a letto con me. Ho 3 cuscini dietro la schiena e il portatile sulla pancia. Dovrei scrivere, ma ho sonno. Sono di umore amaro, per così dire. Sono 3 notti che sogno di morire. Non sono sonni proprio riposanti questi. Diventerò ipocondriaco. È una malattia che gli psicologi non sanno curare. Non hanno letto Leopardi e quindi non sanno che uno che teme di morire è uno già morto. Gli psicologi leggono solo libri di psicologia, mai Leopardi. Sono già morti. Un morto non cura un morto. Che fai? Mi chiede Matteo, appoggiandosi sul mio petto. Guardo delle foto di Aldo Moro. Devo scrivere qualcosa su quegli anni e penso, mio figlio appartiene a una generazione che non sarà in grado di leggere qualcosa come una narrazione. Del resto, io non sto facendo niente per impedire che questo avvenga. E gli rispondo, niente. Continua a guardare le foto di Moro sullo schermo del computer. Quando era più piccolo, mettevo Matteo sempre accanto a me mentre lavorava a un film o a un documentario, e lui si divertiva. Il prossimo anno andrà alle medie. Come passa il tempo quando ci si diverte, eh? Sta per diventare un ragazzo e altri modi di passare il tempo ora. Chi è? Mi domanda. Ed io, uno. Poi aggiungo, uno morto. Lui alza le spalle. Forse gli dovrei dire che uno che forse è morto per un complotto. Sì, ma com'è morto? Mi fa. Guardo la foto con tutti i dirigenti della Democrazia Cristiana al funerale di Moro. Questo è il punto, non il complotto o altro. I suoi amici, i suoi compagni, i suoi discepoli che lo hanno lasciato morire. Moro che gli dà degli infami e loro che vanno comunque al funerale. E metà degli italiani li voteranno. Metà degli italiani diventano infami. L'altra metà? L'altra metà voterà gente che ha fatto carriera in nome di ragazzi morti per la rivoluzione comunista. Gente che, arrivata al potere, dirà, ma è stato comunista però, eh? E l'altra metà degli italiani pure si ricoprirà di infamia, per pietruzze colorate, per un frigorifero e Dallas la sera. Lotte sindacali, contratto unico, il diritto al lavoro e alla vita in cambio di pietruzze colorate. Vuoi sapere com'è morto? I suoi compagni lo hanno abbandonato, gli dico. Matteo ci pensa un po'. Spengo il computer. Quindi era un guerriero, mi dice Matteo. Chissà come gli è venuto in mente una cosa del genere. Ha fatto tutto da solo. Non lo sto più a sentire. Invece penso, i guerrieri non hanno paura di morire. Se sognano la morte, sanno prendere la cosa per il verso giusto. Era buono? Mi domanda. Non lo so, gli rispondo. Matteo si mette a riflettere. E i suoi nemici? Neanche questo so, gli dico. Ma poi, non so perché, aggiungo, non lo so, non importa. Importa che la guerra è bella e che nella vita bisogna combattere per qualcosa, se no c'è la pace. E la pace è un deserto. Sto per addormentarmi, ma mio figlio mi sveglia. Secondo me Moro era un aviere, eppure i suoi nemici, dice. e io non gli rispondo. Mi sto addormentando e vedo che Matteo si alza, allarga le braccia e, uscendo in volo dal letto, sale molto in alto nel cielo. Il cielo è azzurro scuro, sembra finto. Da qualche parte in basso combattono. E il sogno mi fa tremare i polsi. Quando viene arrestato, Daddo ha solo 21 anni. Nelle piazze italiane si sente un unico grido unanime, innocenti o colpevoli che siano. Il grido dura a lungo e la sua eco si risente per molto tempo. Paolo e Daddo rimasero il simbolo di quegli anni senza averli vissuti. Paolo e Daddo liberi. Liberiamo, notar Nicola. Liberiamo Paolo, Daddo e Marini. Liberiamo Fantazzini, la Salerno e Petra Krausen, fuori tutti i prigionieri politici. Quarta immagine. Daddo viene dalla Balduina, Paolo da Primavalle. Entrambi stanno tradendo i loro destini. Contro tutto e tutti, contro i fascisti, la scuola, i riformisti, lo Stato, i padroni, contro la sinistra. Il movimento si va armando e perde tutta la sua innocenza. Pagherete caro, pagherete tutto. Liberiamo il compagno Costa. Rubava quadri da vero artista. Liberiamo Mimmo Zinca da chi ha chiuso il mondo in banca. Fuori tutti i prigionieri politici. Quinta immagine. Daddo nella sezione di Primavalle diventa subito uno di loro, di quella borgata nata sotto il fascismo, priva fino a tutti gli anni 60 di qualsiasi servizio pubblico. Nemmeno l'autobus ci arrivava in quella borgata dove venivano relegati i poveri della città eterna. Nemmeno l'autobus. Liberiamo chi sta all'euro, chi è rinchiuso nei riformatori. Liberiamo i militari giudicati disertori. Fuori tutti i prigionieri politici. Sesta immagine. Daddo e Paolo in carcere. Nella stessa cella incontrano anche il giovanissimo Valerio Verbano. I colloqui sono difficili. Il padre di Daddo non lo va a trovare e muore nell'agosto dell'81. Un solo permesso per l'estremo saluto, pochi minuti, un'ora forse, uno sguardo intorno, silenzio, quello del pudore suo, di tutti. Liberiamo quelli della scala B che si affidano al televisore, che rinchiudono la vita nella coppia, nella famiglia. Siamo tutti prigionieri politici. Settima immagine, la famiglia si compatta. Insulti, telefonate minatorie, scritte offensive sui muri sotto casa. Poi mamma Clara lotta come un toro sui giornali con gli avvocati, prepara pacchi settimanali e programma le visite. Ma a gennaio 1980 arriva la botta. 14 anni e 6 mesi, gelo al cervello, angoscia. Cerco dove posso umanità. E qui abbonda, anche se tra tante distorsioni. Liberiamo chi è costretto ad andare a scuola. Liberiamo chi va al lavoro. Cancelliamo dalla terra il lavoro salariato. Fuori tutti i prigionieri politici. Ottava immagine. Daddo in carcere si immischia, si contamina. Comuni, assassini, rapinatori, li fa assistere dal fratello Saverio penalista. Lo zingaro pluriomicida gli incide il regolamentare tatuaggio del galeotto incompleto. Si gioca a spizzico, 3-7, poker. Daddo e Paolo scontano complessivamente 7 anni di pena. Alla fine degli anni 90 escono. Liberiamo il nostro corpo. Liberiamo l'immaginazione. Liberiamo la ragione, il canto, la creatività. Siamo tutti prigionieri politici. Il 77 è ormai un tempo che fu, è storia, inascoltata. Quello straordinario movimento aveva posto tutte le domande che sono rimaste. Le trasformazioni del lavoro dopo la fabbrica fordista, la crisi della democrazia, le forme in cui si affacciavano alla questione del potere, nuovi soggetti sociali non rappresentati, la forza costituzionale di un'onda di protesta sociale, la necessità di nuove istituzioni, le domande che stanno ancora qui e ora. Forse quel movimento impressionò per l'arroganza e la supponenza dei suoi gesti, scriteriati spesso, ma è certo che può ancora impressionare per la puntualità della sua intelligenza collettiva. Stava tutta lì, quella foto. La forza stava in questo, nel rivendicare a sé quei compagni feriti e armati in piazza, nel sentirli parte di un proprio percorso. Quella foto di Paolo e Daddo a Piazza Indipendenza oggi sappiamo che dice tutto questo. Allora non era il momento, non ancora. Per questo scompare. Non è una sottrazione, forse un residuo di pudore. Passeranno pochi giorni, pochi mesi e tutto precipiterà. L'occupazione della Sapienza, la cacciata di Lama, Giorgia Namasi e tutto il resto. A scendere, a cadere. Prima c'era stato questo, poi era venuto tutto il resto, che stava lì. Per quanti dettagli possa raccontare un'immagine, nessuno sguardo li vedrà allo stesso modo. Ogni sguardo li leggerà a modo suo. Ogni dettaglio racconterà la storia che si vuol sentire. Un fotografo aveva scritto al suo giornale, un giornale di estrema sinistra, di come cambiava il suo mestiere, del silenzio su quello che capitava nelle strade, del silenzio sulle accuse strumentali che portavano in carcere alcune aree di movimento, del silenzio sulle torture, del divorzio tra popolo e immagine, del divorzio epocale tra movimenti e immagine. Si chiedeva il fotografo di sanguinosi episodi in cui fotografie e fotografi erano stati spettatori acritici, interessati, disumani. Episodi dolorosissimi, quasi attesi da interi settori della stampa e della politica, perché devastassero per sempre l'immagine del movimento del 77. Non ci fu denuncia preventiva, non ci furono grida. Qualcuno tentò di opporsi in strada, uno solo. Ma ci fu. Fu spazzato via. Insieme si poteva fare, si poteva intervenire. Forse qualcuno pensò che era meglio lasciare che le cose facessero il loro corso. Liberiamo il nostro corpo. Liberiamo l'immaginazione, liberiamo la ragione, il canto, la creatività, siamo tutti prigionieri politici. Terzo ed ultimo estratto da Gran Teatro Italia, il ricordo di chi non c'era. Questo è il ricordo di chi non c'era di Marco Lupo. 1982. Mio padre serviva pizze in un ristorante italiano nel centro storico di Heidelberg. I clienti erano quasi tutti studenti universitari, gente che faceva tardi con un bicchiere di Chianti, gente a cui piaceva parlare di politica con la lingua impastata. Mio padre tornava a casa all'alba. Si spogliava facendo attenzione a non svegliare mia madre, si infilava nel letto, le baciava il pancione e chiudeva gli occhi. 1983, gattonavo sulla moquette verde pisello di un appartamento delle case popolari di Hanschusenheim. Nevicava sulla Repubblica Federale Tedesca e nevicava sulla Repubblica Democratica Tedesca. Mio padre, in soggiorno, batteva a macchina una lettera per mio nonno. «Hanno ammazzato Rocco Chinnici», scriveva. «1984, mia madre e mio padre avevano inaugurato la parete delle tacche. La mappa verticale della crescita, incisa con un coltello, indicava i centimetri del primogenito che cresceva. «Non è finita», scriveva mio nonno nella lettera di Natale. Parlava della strage sul treno Napoli-Milano. 2012. Mio padre batte a macchina una serie di appunti. Non lo faceva da anni. Il primogenito ha compiuto 30 anni e gli ha chiesto un regalo particolare. Sta scrivendo un romanzo e ha bisogno di testimonianze dirette sulla Rote Armee Fraktion. L'appunto 9 dice: «Eravamo giovani. Alcuni di noi avevano figli e altri stavano per averne. Sapevamo che Richard von Weizsäcker era il figlio di un nazista e che alcuni tra i tedeschi temevano più di ogni altro il ritorno alla barbarie. Perciò ascoltavamo quei ragazzi. C'era il vino rosso, qualche pezzo di pizza. La città fredda e addormentata. E noi parlavamo del tempo, di ciò che avremmo insegnato ai nostri figli. Ma nessuno di loro ebbe il tempo per farlo. Furono tutti suicidati in carcere, tutti. Oggi mio figlio ha 30 anni. Una fotografia ricorda le tacche che incidevamo. 30 anni. Sono pochi e sono molti. Perché nessuno ci ha spiegato il cuore di quei decenni, nessuno si è fatto avanti per raccontare la sua verità. Sono rimasti tutti dove erano, alcuni morti, certi con il pugno alzato, altri con il gladio appuntato sul petto e molti con il capo chino». L'osservatore sente il bisogno irresistibile di cercare nell'immagine quella scintilla, magari minima, di caso, di hic et nunc, con cui la realtà ha folgorato il carattere dell'immagine. Sente il bisogno di cercare il luogo invisibile in cui nell'essere, in un certo modo, di quell'attimo lontano, si annida ancora oggi il futuro. E con tanta eloquenza che noi, guardandoci indietro, siamo ancora in grado di scoprirlo. Finché le gambe mi permettono di fuggire, finché le braccia mi permettono di combattere, finché l'esperienza che ho del mondo mi permette di sapere che cosa devo temere o desiderare, niente paura, posso agire. Ma quando il mondo degli uomini mi costringe a osservare le sue leggi, quando il mio desiderio si scontra col mondo dei divieti, quando mi trovo imprigionato, mani e piedi, dalle catene implacabili dei pregiudizi e delle culture, allora tremo, gemo e piango. Con la testa tra le nuvole fabbrico arte, scienza e follia. Ahimè, non ho potuto tenere per me neppure quelle. Sono state subito adoperate per occupare lo spazio e stabilire la dominanza, la proprietà privata di oggetti e di esseri, e dare piacere ai più forti. C'era qualcuno quel giorno che fuggiva, con un'espressione di puro terrore nel volto, un terrore ignorante, a volte immediato, a volte un terrore superficiale. C'era invece chi non voleva essere in nessun altro luogo se non lì, in quel momento. Se non si ha, se non si cerca il proprio modo di vivere, si finisce col produrre delle fotografie reazionarie, segnaletiche, poliziesche, statali. Fotografie che fissano, che inchiodano, che schedano. E mi sembra che questa sorta di fotografia di Stato sia quella che domina ovunque. C'era uno poi, uno che si è fermato a riflettere. L'ho visto lì, immobile, nel caos, a pensare. C'era un altro invece che al primo urlo si è gonfiato, gonfio di adrenalina, di orgoglio, di fierezza, di egoismo, così. E si è lanciato in un qualche atto di eroismo non ufficialmente riconosciuto come tale, ma abbastanza per lui da gonfiarlo ancora di più, fino poi però a farlo scoppiare insieme al suo ego. Quando si mette in discussione il regime, la prima cosa da cambiare è l'immagine. È l'immagine che rivela i movimenti. Senza un'immagine nuova, senza un modo di vedere nuovo, il movimento non esiste. Senza immagini nuove il movimento non vive. C'era chi ha realizzato in un attimo che la complicità vive, non solo si racconta. C'è chi ha realizzato che tutti quei colori stavano componendo un'immagine che sarebbe stata vista da altri, dopo. C'è chi ha spostato la rabbia un po' più in là e ha usato la fantasia. C'è chi ha agito con un unico obiettivo, che nessuno resti indietro. E molte di noi, quel giorno, il giorno prima e ancora oggi, pensiamo che nessuno resti indietro. Questa storia risale ai tempi in cui ero un giovane studente drogato e ribelle, cioè pochi mesi fa. Il 14 novembre di quest'anno, durante il corteo degli studenti, ci sono alcune immagini in particolare di quella giornata che volevo raccontare. C'è una vietta a destra di via Renula, vicino al Ministero della Giustizia, piena di macchine parcheggiate. Acquattato dietro a un Land Rover, ci sono io, rimasto da solo, che mi tolgo una sciarpa completamente imbevuta di lacrimogeni per buttarla via. La carica della polizia è appena passata, continuando dritta dopo il ministero. Mi giro a guardare e non mi sta inseguendo nessuno. Anche il poliziotto che mi aveva puntato personalmente non mi ha inseguito nella vietta. Ero abbastanza disperato per prendere e buttarmi così a casaccio fuori dalla strada principale e passo un paio di secondi a ringraziare la mia buona stella prima di rialzarmi. Come sono finito lì? L'immagine precedente sono io sempre acquattato. È stata una giornata di acquattamenti. Stavolta sono sul Lungotevere insieme ad altri ragazzi che conosco. Si stanno preparando per andare in prima fila con gli scudi. Io sto lì che fino all'ultimo momento non so che cosa fare. Qualcuno mi dice: passami gli occhiali, passami lo scotch. Non vado. Vedo partire la carica a rallenti come in un film. Resto nei cordoni dietro la testa e dopo pochi secondi siamo circondati da gente in fuga ovunque. Pochi secondi ancora dopo, a reggere il mio cordone siamo rimasti soltanto io, Raparelli e altre due ragazze di filosofia alte così. In quel momento capisco che militarmente non abbiamo più niente da dire. Mi rialzo da dietro il Land Rover di prima e mi rendo conto che non sono proprio solo. Intorno a me si muovono presenze che non c'entrano niente con la situazione, che arrivano da un altro film. Passeggiatori pomeridiani del centro che guardano i negozietti e si muovono un po' sornioni e soltanto vagamente allarmati da quello che accade due vie più in là. Soltanto molto vagamente allarmati. È strano come a volte quando si è dentro un grande corteo si abbia l'impressione di essere in mezzo a un avvenimento fondamentale, ma due vie più in là, se ci si stacca un attimo per andare al bagno per esempio, si vedono persone incredibilmente vaghe che guardano i negozietti. Qualcuno di conosciuto mi viene incontro, fa il vago con le mani in tasca mentre cammina in mezzo ai passeggiatori del centro, mi prende sotto braccio e mi dice: Silvio, che cazzo stai a fa qua? È Tiziano, un mio amico. E il semplice fatto di aver ritrovato qualcuno con cui scappare mi restituisce la capacità di pensare e ricollegare le cose. Usciamo insieme da quest'immagine, evitando i poliziotti all'angolo. Nell'immagine ancora prima Riccardo mi saluta, correndo verso la testa del corteo. mentre ripete con grande fiducia i suoi principi incrollabili: tranquillità, responsabilità e protagonismo. Lo rivedrò 3 giorni dopo. Io nei 3 giorni dopo, tutti i giorni tornerò su quelle vie da solo, per andare a fare teatro a Rialto, nel ghetto, mentre lui è dentro Regina Celi perché l'hanno arrestato. Ci sono io che passeggio per queste strade tutte assolate come il 14 novembre e i segni della battaglia sono stati cancellati. Qui è dove i poliziotti hanno inseguito la gente fin dentro il cortile. Qui dove hanno caricato quelli che erano scappati sul ponte. Qui dove ho incontrato il mio amico N, che mi ha raccontato che è stato salvato da un negoziante che lo ha acchiappato per il cappuccio e tirato dentro il negozio mentre i poliziotti lo inseguivano. In quei giorni, mentre camminavo sul Lungotevere, avevo sempre immagine, sempre in testa, l'immagine che è diventata famosa, quella di Riccardo per terra con la faccia insanguinata durante l'arresto, e quella sconosciuta, soltanto mia, di me rimasto da solo dietro la macchina, con Tiziano che mi prende sotto braccio e mi porta via. L'ultima immagine, che poi è la prima, quella da cui siamo partiti. Dado quel giorno non aveva nemmeno 22 anni e fece una cosa che io non avrei mai fatto. È tornato indietro e ha provato a ripetere la fuga portando via il sottoscritto con 2 pistole in mano. Quella foto è lui capace di offrirsi agli altri. Ci possono essere e ci sono attimi che sfuggono al potere. Guizzi di umanità, guizzi d'amore, di partecipazione, di rivolta. Attimi di disordine nell'ordine stabilito da altri. Quegli attimi sono la vita dell'innovatore, del rivoltoso, del delinquente politico. Quegli attimi sono la vita del fotografo a cui sta a cuore la storia e la vita. Mi ostino a pensare, scrive Tano, che una bella immagine possa impedire il male prima che accada, possa esorcizzare la morte. Una bella immagine, come i movimenti, è un continuo gioco al rialzo. I movimenti nascono da un gioco al rialzo dell'umanità, come le immagini, le belle immagini, nascono da uno sconfinato amore, un amore che comprende tutti. Conosco Dado così, per caso, così come capitano le cose belle della vita, come le belle immagini. I movimenti nascono da un impegno assoluto. Per crescere hanno bisogno di delicatezza. Bisogna abbracciarli, i movimenti. Bisogna alitarci sopra quando sentono freddo, cullarli. Giustifichi lei. Il fotografo ha sempre sentito di doverlo fare. E lo ha fatto. È come se fosse sempre vissuto davanti a un tribunale che condanna la strada. Delle volte davanti a un tribunale c'è finito davvero. Dado quando esce a Sete di Vita, il Manifesto, la rivista Accattone, Derive a Prodi, il Bar Pasquino. Giustifichi lei. È mezzo secolo che giustifica la strada. Mezzo secolo. E le cose non sono cambiate nella strada. Aveva una zazzera di capelli tirati all'indietro. Gli metteva in evidenza i lineamenti forti del volto, ma anche la tenerezza e la simpatia. Ho sempre sentito il bisogno di rendere amabili gli atti di movimento, di mostrare chi sono i veri detentori della violenza. Non è facile per me scrivere di Dado. Ho sempre visto barriere di brutte immagini erette per arginare i movimenti, per distruggerli nella memoria. Chi sono i vincitori? Chi sono i vinti? Si muore tutti, vincitori e vinti. Vince chi rimane nella memoria. A fine settembre ci ritrovavamo sempre in quella specie di piccolo fazzoletto di verde che riempie di persone per ricordare l'assassinio di Walter Rossi da parte dei fascisti. Per la memoria c'è una lotta più feroce, più assoluta che per il potere. Non esclude colpi. Penso di averla subita, sperimentata. Gli avversari sono più forti, hanno più mezzi, mezzi infiniti, perfidia infinita, ma possono anche non vincere. Prima a pallone era una schiappa, ma Argabbi è diventato un professionista. Ho sempre amato le immagini perché non sempre nelle immagini, con le immagini vince il più forte, il più spietato, il più ricco. Non sempre vince l'oblio, la tenebra, può anche vincere la finezza. Basta una bella immagine per distruggere montagne di cattive immagini, per dissolverle, cancellarle. Basta una sola bella immagine. Dado, esperto di venti, di onde, di terminologia marinaresca, per una bella immagine, ci vuole la tensione di un'intera vita, un amore sconfinato. Ventotene, l'isola e il mare che Francesca ha scelto per ospitare le sue ceneri. I movimenti sono fatti da questi elementi. I movimenti hanno sempre vinto nella memoria. Se bisognava organizzare un'assemblea, mettere i lucchetti per chiudere la scuola o scazzottarsi con i fascisti, lui era sempre lì, sempre in prima fila. I movimenti hanno sempre prodotto le immagini più belle. A calcetto erano sfide all'ultimo sangue, la generosità, il coraggio fisico di Daddo spiccavano come papaveri in un prato. Le immagini più belle hanno sempre prodotto nuovi movimenti e più di qualsiasi avvenimento contano gli occhi che lo guardano. Che vuoi parlare con me della Sicilia? Mia moglie è siciliana e tu vuoi parlare con me della Sicilia? Giustifichi lei. Sono stato espulso da tutte le scuole del regno. Occorre ripulire quei volti. È nata Nina, il mio più grande amore. Occorre abbracciare i nostri morti, pulire i loro volti, trovare la loro bellezza. La bellezza distrugge le brutte immagini. La bellezza cerca sempre il cuore degli spettatori. Lo troverà. Sempre. Io ho un amico così, me lo sogno la notte. La mattina dopo, il fotografo si trovò in piazza Indipendenza. I mitra che disperdono la folla, i vetri delle macchine che vanno in frantumi. Per lunghi secondi sembra che nella piazza siano rimasti solo i feriti. Paolo tenta di muoversi, una gamba segata da una raffica e rivoltata dall'altra parte. Grosse gocce di sangue, una densa scia rossa quando si trascina un silenzio irreale, dei passi di corsa, il respiro di Daddo. Altri spari, un paio di agenti in borghese puntano il dito, gridano sì, ma la foto di Daddo che tenta di portare via Paolo giustifichi lei. No. Non giustifico niente, non mi va. È roba mia. Non riguarda nessuno. Roba di Paolo, di Daddo. È mia. Mi mancherà quella fragorosa risata. Forse esistono due mondi. Il mondo della realtà e il mondo delle immagini. Dal mondo delle immagini periodicamente si staccano delle meteore. Fatte di linee, di angoli, di chiari, di scuri, di pieni, di vuoti. Vengono nel mondo della realtà, nel nostro mondo. Portano le loro linee, i loro angoli negli avvenimenti, nelle persone che li animano. Ne prendono le vesti, le paure, l'orrore, le ansie. Ne subiscono l'ingiustizia, la violenza, il sopruso. Terrorizzate vogliono tornare nel loro mondo, nel mondo delle immagini. Vogliono portare in salvo, conservare per sempre l'amicizia, la solidarietà, l'amore che hanno conosciuto e vestito nell'inferno della realtà. Il fotografo le può vedere cercare rifugio, fuggire nelle lenti del suo obiettivo. Il fotografo deve solo proteggerle, deve solo stringersi la macchina al petto e quelle immagini si compongono da sole. Possono nascere nella violenza, nel sangue, nel terrore, ma vivono dell'amore, dell'amicizia, della solidarietà che riportano le meteore là da dove sono venute, nel mondo delle immagini e della memoria, nel mondo della giustizia e dei movimenti. Leonardo Fortuna è morto circa 2 anni fa. A lui questo libro è dedicato. Per noi rimane Daddo, il compagno che torna indietro a prendersi l'amico ferito, perché nessuno deve restare indietro. Non un santo. La sua è stata una vita dissipata, ma il nostro eroe sì. Gli amici di Daddo. Claudio, Tano, Giancarlo, Lanfranco, Turi. Sarà che siamo specie di uomini all'antica, abituati alla rincorsa e alla fatica. Sarà che di quello che ci hanno portato via resta soltanto quest'unica poesia che ci unisce. Sarà che ci sentiamo distanti, o saranno i nostri mondi commossi, saranno i tempi o i versi che ci sfiorano. Saranno il sangue e il sudore che ci costa, E ogni più piccolo pensiero che svanisce sarà che chi ci ha trovato stanchi dice, dice che stanchi non è ancora abbastanza. Ma se nessuno ci viene a prendere, se tu non mi vedi nemmeno, non posso solo buttare gli occhi avanti, non posso farlo senza veleno. Resta soltanto un sospiro sospeso nell'aria, è il morso del tempo che bussa sul tetto. Rimaniamo a guardarci, a vederci guardare, mentre da dietro li sentiamo arrivare.